spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Sono uno studente irriducibile. Cosa vuol dire un irriducibile studente? Però cerchiamo di capirlo e un po' l'abbiamo inteso. Innanzitutto buongiorno ancora a tutti voi da Irene Zerbini. Sono uno studente irriducibile è l'incipit di un sms che ci è arrivato al 349-238-6666 e lui ci dice: ho conservato tutti i miei libri ed alcuni quaderni, scrive Gianni, anche i quaderni mezzo secolo fa, e ormai ovviamente solo per scopi affettivi. Quando serve spazio rinuncio ad altri oggetti, ma non riesco a liberarmi dai miei ex compagni ed amici. E questo ci porta dritto dritto al tema che affronteremo in spunti di vista sul costo ancora una volta dei libri di scuola, che è stato calcolato quest'anno per ogni famiglia. Non so come sia stato fatto il calcolo, visto che insieme ai libri sono stati introdotti anche zaini e astucci ai quali magari è più facile rinunciare se il bambino, il figlio fa i capricci perché vuole proprio quello, diciamo, non proprio economico, su quelli si può contrattare, far maturare un ragazzo, uno studente, decidere di avere un approccio di un certo tipo, ma sui libri non si può rinunciare. I libri non sono decisi dallo studente, sono adottati dal consiglio d'istituto e hanno dei prezzi sempre crescenti, e dunque noi oggi affronteremo proprio questo tema, perché c'è una proposta che arriva dall'ADUC che dice: siano gli istituti, sia le scuole ad acquistarli. Dopodiché cosa succede? Vengono distribuiti agli studenti e a fine anno gli studenti li restituiranno per gli studenti dell'anno successivo. Che ne pensate? Ma soprattutto diteci voi, i libri di scuola li avete conservati? Quali? Sì? No? Siete corsi a rivenderli? Qual è stato il vostro approccio a questi oggetti che il nostro primo ascoltatore ha chiamato amici ed ex compagni? E c'è anche qualcun altro che ci dice: no, io li ho tenuti, non me ne sono liberato, li ho conservati con piacere, in particolare quelli di storia, perché sono molto influenzati a seconda, ci dice Piero, dell'idealismo soggettivo dell'editore. Dunque, agli occhi di chi legge ti fa apparire, questo spiega Piero, più o meno determinante, grave, positivo o negativo, un certo evento storico. Quindi, rileggendone più copie si possono trarre più sfumature. Molto vero questo, eh? Al 349-238-6666 diteci quello che fate e quello che avete fatto in passato con i vostri libri di scuola. Alle 8:30 ne parleremo, potete telefonare 800 24 00 24. Poi invece ci sposteremo sul lavoro, anzi forse l'aspetto più aberrante del lavoro, ancora molto presente, in continua evoluzione, se ne parla quando la vittima finisce in primo piano sui giornali, ha una certa stagionalità inevitabilmente questo fenomeno, stiamo parlando di caporalato, lo chiama il racket del sudore oggi Repubblica. Ha avuto tanti nomi perché in Sicilia nel sud si chiamavano campieri, gabellotti, sovrastanti, oggi si chiamano caporali, ci ricorda Tilio Bolzoni, però hanno sempre le stesse facce e lo stesso odore, sono i mafiosi e pronti a sfruttare, a farsi consegnare sull'intermediazione, cioè sul pizzo, quasi il 50% della quota sottratta ai lavoratori che già lavorano per 2 euro l'ora. Ma come contrastarlo? Anche perché c'è tanta paura, c'è un muro di silenzio. Oggi il ministro Martina ha detto: chi sa, denunci. Purtroppo, come attesteranno gli ospiti che avremo nel corso della nostra trasmissione e che conoscono molto bene questa realtà, la cosa più difficile da ottenere è proprio una denuncia. Parleremo di questo dalle 9 e sono due aspetti dell'Italia che affronteremo. Noi ora andiamo a parlare invece dell'Italia da qualcuno che la osserva da anni, anzi da decenni, e ha un curriculum molto particolare. È la nostra corrispondente di oggi. Visti da fuori. Judith Harris, welcome. Grazie e buongiorno a tutti. Buongiorno Judith. Judith Harris è una corrispondente statunitense che ha lavorato per Reuters, per Time, per il Wall Street Journal, per NBC TV, per la BBC. Io non saprei proprio per quali delle testate giornalistiche più autorevoli del mondo tu non abbia scritto. Molto gentile, ma io dico sempre è come pulire la casa. Un giorno si fa la cucina, un giorno si fa il bagno. Un giorno si fa la cucina, un giorno si fa il bagno, quindi non si può fare tutto insieme, tu intendi? Beh, faccio il freelance, si fa una cosa un giorno, una cosa un altro. Beh, ma non è da tutti. Visto che siamo così, abbiamo aperto improntati alla nostalgia, abbiamo scoperto che hai lavorato anche per il leggendario Edward Murrow. Noi l'abbiamo conosciuto per Good Night e Good Luck, se vuoi. È vero, era un grande. E ha portato anche a parecchi terremoti, diciamo così, negli Stati Uniti. Ha portato, per esempio, alla censura del senatore Joseph McCarthy. Si deve proprio a lui, al suo coraggio, ai suoi servizi televisivi. Cosa ricordi di lui personalmente? Che lezioni di giornalismo e di vita ti ha tramandato? Ma io ho lavorato per lui per il governo americano, perché lui diventò il direttore della USIS. Infatti così sono stato inviato qui e noi facevamo rapporti culturali e informazione per gli Stati Uniti, e lui era il direttore, perché lui era il direttore mio per 6 anni. E cosa ti ha trasmesso, se hai ancora un ricordo di quest'uomo? L'onestà. Era veramente integerrimo, come viene descritto in tutte le sue... Assolutamente sì. Noi in teoria dovevamo fare propaganda, ma propaganda era di dire le cose come stavano, e senza esagerare, senza dire bugie. E perché le donne diplomatiche non potevano sposarsi? Non l'ho mai capito, infatti nemmeno la Corte Suprema l'ha capito, e infatti l'hanno rovesciato questa legge. Ma questo divieto di matrimonio, che poi toccava anche te, ma esatto. Toccava solo le donne o tutti i diplomatici? No, solo alle donne diplomatiche, ma c'erano pochissime donne diplomatiche. Io ero uno dei nel mio anno eravamo cinque. In cinque c'era, sì, il divieto assoluto di matrimonio. Sì, tranne quelli con le nomine politiche, che era come tipo Shirley Temple, diventò ambasciatrice e lei era bella sposata. E tu tra lavoro e matrimonio cosa hai scelto? Matrimonio. Hai rinunciato a quel lavoro? Sì, e poi mi hanno fatto tornare ma non più come diplomatica. Sei tornata come giornalista. Per organizzare incontri culturali, tornei di musica e mostre d'arte. E racconti l'Italia da tantissimi anni. Ora, il tuo pezzo, uno dei tuoi pezzi più recenti sul diverbio tra Monsignor, lo sappiamo, insomma, tra una fetta, diciamo così, della Chiesa e Salvini, tu lo racconti battuta per battuta, riga per riga, senza utilizzare un aggettivo, e poi segnali che ci sono 5 milioni di nuovi italiani. Racconti proprio questo aspetto. Sembra quasi un'indicazione a dire che l'immigrazione sta diventando una risorsa economica anche in Italia, dal tuo punto di vista. C'è chi dice così, io non ho punti di vista, io seguo gli esperti e cerco di cogliere quello che dicono loro, non ho idee mie. E tu hai faccio il giornalista. Hai scritto che 3 milioni e mezzo di questi 5 milioni di nuovi italiani hanno dei permessi di lavoro, e le entrate tributarie di queste persone valgono l'8,6% del totale del... Credo che ti avrei preso questo da Il Sole 24 Ore. E hai riportato questo pezzo. Hai avuto reazioni? Sì, finora positiva, anche se su altri articoli sull'immigrazione ho avuto risposte negative anche, qualche cosa positiva, qualche cosa molto negativa. È un gigantesco problema. Io conosco l'Alta Italia abbastanza bene, immagini un paesino nel Trentino in montagna che si trova davanti, loro hanno le loro tradizioni. Mi ricordo di aver incontrato dei ragazzi che si accompagnavano un loro amico che si sposava, avevano tutti gli uomini, questi giovani, le corone di fiori in testa. Allora, immaginiamo un influsso di immigrati che sfida le loro tradizioni. È difficile, però è inevitabile. Allora, il problema è come lo gestiamo, questo grossissimo problema. Quindi la gestione e l'organizzazione proprio dal punto di vista delle direttive, delle policy. Oltre che di immigrazione, recentemente cosa hai raccontato dall'Italia al tuo pubblico statunitense? Per me la cosa più bella era il lago che davanti ai miei occhi in questo momento, scusi, il lago di Bracciano, abbiamo scoperto, che si sapeva già, ma io no, che c'è un villaggio neolitico, l'età della pietra, di 8.000 anni fa, ed è il villaggio neolitico più grande conosciuto nell'Europa, e ho fatto un servizio su questo per una rivista di archeologia in Inghilterra, e gli archeologi qui sperano, siamo al nord di Roma, sperano che un giorno o l'altro altre università all'estero si interesseranno pure. È molto costoso, hanno fatto le immersioni per scoprire questo villaggio, 5 metri di acqua più 3 metri di fango, ed è un Pompei neolitico. Beh, allora, straordinario. Per me è la cosa più bella immaginabile, scrivere su una cosa così. Ed è straordinario anche questo che ci hai raccontato. Tu sei un'esperta, tra l'altro, non solo di arte e archeologia, ma anche di storia. Se tu dovessi indicare ai tuoi connazionali un percorso, che ovviamente non sia il solito tradizionale che già conosciamo ed è indicato dalle guide, in Italia, no? Senza, in teoria senza limiti di spesa, quindi senza badare a quanto costa l'aereo o il treno per arrivarci, dovessi tu indicare due o tre mete assolutamente immancabili in Italia, quali indicheresti? Ma conoscendo molto bene l'Italia, non sono un'esperta di nulla, innanzitutto, mi permetti la correzione. Noi siamo stati molto molto bene quest'estate in Toscana, nei paesi piccoli, meravigliosi, che non conoscevo affatto, per i cicli di concerti nei piccolissimi teatri. Uno è La Foce, per esempio, ci sono dei piccoli mini festival di musica di classe mondiale, e nei borghi piccoli meravigliosi. Allora, la Toscana ha ancora delle belle sorprese. Poi io sono partita di Venezia e tutto intorno, allora dovunque ti metti piedi non c'è un percorso. Mi ha chiesto un certo americano l'altro giorno: che dove vado? Difficile dire, dovunque è tutto meraviglioso. E soprattutto tu mi sembra stia facendo scoprire, o vorresti far scoprire anche agli americani, anche queste realtà piccole, le realtà dei borghi, le realtà così attive culturalmente. Questo è un aspetto diverso da come invece viene diffusa, costruita, finanziata la cultura negli Stati Uniti? Sì, assolutamente sì. Beh, pensate voi chi vuole andare in America vuole andare innanzitutto a New York. Io amo molto anche California, ma soprattutto il vecchio sud, tipo Charleston, sono posti fantastici. Ci sono delle isole vicino alle Caroline che sono un incanto. Allora sì, a me piacciono i posti piccoli. Quando tu hai frequentato la scuola, l'hai frequentata negli Stati Uniti, e c'è un sistema scolastico che chiaramente è molto diverso per molti aspetti, ma soffermiamoci sulla questione dei libri di testo che affronteremo da qui a breve nella nostra trasmissione. I tuoi figli sono andati a scuola in Italia o negli Stati Uniti? In Italia e università negli Stati Uniti, ma in America i libri scolastici sono della scuola e poi alla fine dell'anno si restituiscono. Quindi quell'annuncio... Per la scuola nessuno deve comprare un libro, perché ci sono delle famiglie poverissime e non sarebbe nemmeno giusto di costringerli di comprare i libri. Quindi la proposta che si farà da qui a breve proprio a questi microfoni ha dei precedenti storici molto consolidati, gli Stati Uniti, il Canada, la stessa cosa, i libri vengono acquistati dal board, diciamo, sì, dalla esatto. scuola e poi a fine anno vengono restituiti, questo è quello che è successo a te, invece i tuoi figli che hanno frequentato in Italia hanno comportato delle spese in termini di libri per te? È chiaro. È stata una sorpresa, sì. immagino. Comunque, non te l'aspettavi di spendere? All'università si deve comprare i libri, ma anche negli Stati Uniti. Non alla scuola. Non nella scuola dell'obbligo. Per il principio appunto di accessibilità, d'uguaglianza, come dicevi tu, di tutte le famiglie. Quindi questo è stata una sorpresa per te, genitore, diciamo così. Sì, esatto. Ma extracomunitaria. C'è una storia piuttosto buffa, i miei nipotini che hanno 6 anni e 8 anni studiano in una scuola a Los Angeles, pubblica, gratis, dove si insegna, è molto sperimentale, dove si insegna in inglese, ma anche a scelta in tedesco, italiano, francese, spagnolo. Allora lì c'è un grosso problema di libri. Dunque i genitori partecipano nel senso che organizzano delle gare di beneficenza dove ognuno contribuisce qualcosa per comprare altri libri, dato che devono avere i libri in 5 lingue. È una cosa un po' particolare. Molto particolare, e quindi arriva l'intervento dei genitori che coi fundraising finanziano questa possibilità di polilinguismo in sì, questa ma è molto scuola. Molto interessante perché l'America è troppo isolato e deve avere delle persone che sono più capaci di parlare altre lingue, bisogna aprirsi al mondo, il mondo è già grande. E loro hanno a 5 anni incominciano con un'altra lingua che mi sembra fantastica. È una sfida al monolinguismo che a volte si rimprovera agli anglosassoni in generale, per cui tutti gli altri paesi del mondo si sforzano in qualche modo di acquisire altre lingue che poi sono aperture anche su altre culture, altre è possibilità chiaro. E adesso anche gli Stati Uniti stanno cercando un po' nei posti ovviamente più progressisti di rompere la policy di English only che caratterizza spesso il sistema scolastico americano. È molto interessante quello che ci hai raccontato, Judith Harris, ma ci chiediamo, ancora oggi c'è qualcosa che ti sorprende dell'Italia o sei stata completamente assimilata e quindi non riesci più a cogliere sorprese o avere emozioni anche negative, positive e negative, no? Quando si ha all'inizio l'impatto con una cultura nuova, le emozioni sono più forti. Ma due cose mi stupiscono. Innanzitutto la mancanza di un senso di organizzazione che si vede troppo spesso, che la gente non sa organizzare. Mancanza di coerenza logica nella gestione di tante tante cose, dall'ufficio postale a tutto il resto. E il secondo negativo è lo stile del giornalismo, che dove il giornalista troppo spesso si autoindulge nel parlare a vanvera. Io incomincio leggendo il giornale dall'ultimo paragrafo e dandolo in su per scoprire di che cosa si tratta. Noi siamo più stringenti nello scrivere. Arrivate subito al punto, al fatto, e non cominciate con il commento, l'aggettivazione, il romanticismo di tante cose. Grazie Judith, sarà molto bello tornare a parlare con te, non in visti da fuori, ma magari in una trasmissione proprio dedicata al giornalismo, come lo si fa e come lo si scrive, come lo si presenta, come lo si elabora nei diversi paesi. Grazie per il tuo tempo. Una cosa positiva dell'Italia che ancora ti sorprende prima di salutarci? È il paese più bello del mondo. Grazie ancora Judith, take care, quindi ci vediamo e ci sentiremo presto ancora una volta a Spunti di Vista. Judith Harris, lo ricordo, è una freelance, l'avete sentita, statunitense, che ha collaborato e scrive per il mondo intero, da NBC a Reuters, Wall Street Journal, Time, BBC, non so più quale testata nominare veramente, e grazie alle sue corrispondenze ci racconta agli altri. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Le Parliamo di libri, di costi dei libri e di quello che le famiglie devono affrontare con l'apertura del nuovo anno scolastico in questa parte di Spunti di Vista. Ci sono già tanti messaggi sulle vostre abitudini, vi abbiamo chiesto, li conservate, ne avete alcuni, li avete rivenduti tutti, cosa fate? Come vi ponete di fronte ai libri sui quali avete studiato o sui quali studiano i vostri figli se non siete più in età scolastica? Ci sono anche le vostre telefonate 800 24 00 24, andiamo a Palermo, pronto? Buongiorno Maria. Buongiorno signora, buongiorno, complimenti sempre. Allora guardi, io naturalmente come penso tutti ho venduto dei libri scolastici, naturalmente ma con grande diciamo dispiacere, solo per necessità economica, perché hanno fatto parte della mia vita e quindi rinunciare mi rattristava. Oggi che cosa posso dire? Però li vendevo con facilità, perché oggi esiste il cosiddetto libro quaderno dove si trova l'esercizio già fatto, quindi chi compra, i genitori che comprano questi testi scolastici da un lato risparmiano, però il risparmio si può trasformare in un grande danno e lei capisce perché, perché trovano tutto. Ecco perché io. Cioè, trovi l'esercizio già fatto. Già fatto. E allora che cosa abbiamo combinato? A meno che un genitore non abbia tutto quel tempo libero per prendere la scolorina e trascorrere l'estate a scolorare tutto ciò che è stato. Ma speriamo di avere una vita un pochino più interessante, che non offra questo tempo per queste attività. Mi sembra masochismo. E lo fa, ecco. Ecco, tutto qua. E così, quindi il vero problema è che ognuno dovrebbe avere il proprio libro di testo, che dovrebbe avere un prezzo accessibile. E poi anche un'altra cosina, se lei me lo concede, se ha il tempo, questo. Il libro, veda, il libro quaderno ha un grosso difetto. Quanti ragazzini nelle classi abbiamo affetti da scoliosi? Non tutti hanno lo zaino trolley? E allora magari si mettono d'accordo, tu porti il testo di matematica, io porto il testo di inglese. Col libro nostro, diciamo, il testo si poteva mettere in mezzo al banco e si poteva procedere a fare l'esercizio. Col libro quaderno invece c'è chi può lavorare, c'è chi non può lavorare. Quindi ma lei è un insegnante? Eh sì, sono un insegnante di inglese. Ah, si capisce da come parla, di come stanno in classe e come mettono i libri aperti sul banco. E per una lingua straniera sa che problema c'è? Quale? Triplica tutto. Scusi? Dico, per una lingua straniera, sì. Il problema è ancora più grave perché tutto triplica come problema. Ma quando voi scegliete, voi insegnanti, i libri di testo, vi ponete sì. Il problema dei costi per le famiglie? Intanto noi abbiamo una legge perché non si può superare una certa soglia, sì. Tanto, sì. E ce lo poniamo. Naturalmente questo dipende dalla sensibilità, però veda, c'è un'altra cosa. Certe volte un testo può costare un pochino di più, secondo me. Però permette all'alunno e scrive. Però vale di più. Così sì, e soprattutto l'alunno che rimane assente per un certo periodo tramite le spiegazioni eccellenti può restare a galla. Grazie. Quindi, grazie professoressa, perché ci ha veramente toccato in un intervento 3-4 tematiche importanti e solo chi lavora in un certo settore può naturalmente accendere così i riflettori su quelle che sono le tematiche e gli avvenimenti che in un'aula, in una classe accadono e che a volte chi osserva da fuori, da genitore o semplicemente da cittadino, non può cogliere. Quindi grazie a questa ascoltatrice 800 24 00 24 per i vostri contributi. Intanto ci sono dei tetti, è vero, per esempio in alcune classi del liceo scientifico è stato stabilito ed è stato calcolato per quest'anno in Piemonte, adesso qui quelle cifre che vi propongo sono per l'esattezza per la provincia di Vercelli, che per il liceo scientifico bisogna spendere fino a 420 euro ad allievo, per l'istituto alberghiero 387 euro, per la scuola media non bisogna superare i 300 euro, ecco questi sono tetti, sono cifre che più o meno oscillano, ma sono intorno a questi valori anche nel resto d'Italia, per quello li abbiamo considerati indicativi. C'è una proposta che abbiamo sentito in apertura di trasmissione che riguarda l'acquisto dei libri proprio per sollevare le famiglie da parte degli istituti scolastici. Ebbene, ci scrive qualcuno che questo nella provincia di Trento, cioè questo comodato per cui la scuola acquista i libri, poi li concede agli allievi fino ai primi due anni delle superiori, poi questa pratica cessa, avviene già nella provincia di Trento, e visto che in questi giorni la sta rilanciando l'ADUC, con noi c'è il vicepresidente dell'ADUC, Pietro Yates Moretti. Buongiorno. Buongiorno a voi. In cosa consiste esattamente la proposta che vi vede protagonisti? La proposta è questa, cioè di copiare sostanzialmente il sistema scolastico nordamericano, sì, e anche presente peraltro in alcuni paesi nord europei. La scuola, l'istituto o un'unione di istituti ancora meglio, si fa carico di negoziare e acquistare i libri che poi vengono concessi in comodato alle famiglie. Questo permetterebbe da una parte di ridurre il prezzo, perché gli istituti scolastici ovviamente hanno un potere negoziale molto superiore alla singola famiglia, perché ne acquisterebbero una quantità molto più molto consistente, più ingente, quindi acquistano che ne so, sì, 1000 libri di per chimica, non so, e quindi hanno il potere anche di ottenere sconti che oggi la singola famiglia non può certo ottenere dall'edicolante da cui va a prendere il libro. Il principio è molto chiaro, ma poi come funzionerebbe con i ragazzi? Cioè, verrebbero dati loro i libri a costo zero? Ci sarebbe nella vostra proposta una partecipazione? Perché poi chi sosterrebbe questa spesa dell'istituto scolastico? Certo, questa è un'obiezione più che valida, nel senso si tratterebbe ovviamente... È una domanda e non è un'obiezione, mi piace molto l'idea del comodato. No, in Canada, negli Stati Uniti è così. I soldi vanno trovati. Se la scuola non ha la possibilità ovviamente di acquistare i libri, che sarebbe ovviamente la cosa ideale, potrebbero essere acquistati con un contributo delle famiglie, però si capisce che le famiglie contribuirebbero in maniera molto, ma molto inferiore, perché un libro sarebbe distribuito a uno studente del primo anno, l'anno successivo quel libro sarebbe restituito alla scuola, che poi lo darebbe di nuovo allo studente entrante l'anno successivo, quindi il costo di un libro già abbassato perché negoziato da un soggetto ben più potente sarebbe distribuito su 4-5 famiglie in 4-5 anni. Quindi un costo di molto inferiore, magari la scuola potrà farsi carico di provvedere ad acquistare i libri o comunque a darlo in comodato d'uso gratuito alle famiglie meno abbienti. Vediamo cosa ne pensano di fronte a questa proposta anche gli editori. Buongiorno ad Alfieri Lorenzon, buongiorno. Buongiorno a voi. Direttore generale di AIE, come le sembra questa proposta che tra l'altro sembra in alcune province italiane sia già di fatto una realtà? Per esempio Trento, ci dicono. Beh, difatti, visto che esiste, gli editori non possono far altro che adeguarsi a delle prassi che ci sono. Un solo inciso, quando si parla di sistemi scolastici di altri paesi, bisogna poi ricordarsi che non si possono prendere solo parti di questi sistemi scolastici, per cui il comodato d'uso è una cosa sicuramente interessante e importante, però nei paesi che voi avete prima citato, gli investimenti sulla scuola, e parlo di tutto il sistema scolastico, aule, laboratori e quant'altro di altra natura, per cui non si può, secondo me, prendere solamente un pezzo per dire che una cosa è bella o brutta, e in Italia si fa meno bene o in maniera differente. Io no, guardi che non era un giudizio negativo sull'Italia, ci si interrogava insieme su come risolvere questo problema. Se mi consente, io credo che il problema sia soprattutto se i libri consentono, prima ho sentito di sfuggita il contributo dell'insegnante, consentano agli studenti e quindi alle famiglie che investono sulla permanenza a scuola degli studenti di arrivare all'obiettivo necessario, cioè la preparazione per la propria vita professionale, per l'incremento della cultura. Io credo che questa sia la cosa più importante, poi altrimenti andremo a discutere di quant'è il costo vero della famiglia. Prima sentivo parlare di tetti, è vero che i tetti di spesa sono uguali in tutta Italia. Ricordo forse male, ma io credo che il tetto di 400 euro sia quello di alcune classi che possono essere sperimentali o che possono comprendere l'acquisto anche dei dizionari. Io penso però che il problema debba essere inquadrato in questo: i libri che vengono acquistati servono effettivamente o possono servire ad avere questo scopo finale oppure no? Cioè lei dice puntiamo all'analisi della qualità, cioè cosa c'è dentro il libro? Lo riterrei importante, non indispensabile. Poi credo che il peso dell'investimento per le famiglie sia effettivamente un peso molto importante, soprattutto perché poi se ci sono famiglie che possono avere due o tre figli, la spesa viene condensata tutta in un mese, che è settembre. Ottobre, e diventa effettivamente un problema di economia generale. Tenga presente che però ci sono tutta una serie di cose che magari non si sanno, ma in Italia in una spesa complessiva di monte adottato, che è di circa 1 miliardo di euro, lo Stato italiano dà per le famiglie meno abbienti 103 milioni di euro di contributi. I libri per elementari vengono comprati dai comuni, quindi in minima parte la spesa per le famiglie meno abbienti ha un tipo di calmierazione. E poi sappiamo tutti che esiste un mercato dell'usato, alcuni libri non vengono acquistati nuovi, ma sempre più spesso esatto. Si diffondono queste reti dell'usato. Rispetto alle cifre che ho detto prima, bene o male, sì, quello che viene circuitato come libro è pari circa la metà, quindi è sempre una spesa importante, allora deve essere finalizzata. Io credo che sia giusto che ci si interroghi su questo e quindi quando la professoressa diceva dobbiamo avere dei libri che servono davvero ai nostri ragazzi per fare in modo che diventino più bravi, migliori, questo è veramente importante. Poi quanti titoli nuovi si sfornano ogni anno nelle diverse materie? Lei è in grado di fornirci questa cifra? Ma circa, io credo che possono essere attorno a qualche migliaio, perché poi di titoli nuovi? Di titoli nuovi. Tenga presente che le materie sono tantissime, noi abbiamo solo, anche se poi c'è stato un tentativo di semplificazione, ma ci sono delle sperimentazioni che poi necessitano di libri, sto pensando agli alberghieri o a alcuni istituti turistici o all'agricoltura, che magari hanno poche unità ma che hanno bisogno di testi specifici. Poi ci sono i grandi istituti, i licei. Chiaro, perché una delle obiezioni che viene fatta alla famiglia è proprio questa, dice perché non si possono fare, questo ci segnalano alcuni ascoltatori, dei testi che come una volta rimanevano, come dire, per generazioni, perché questa necessità sempre di cambiare titolo edizione, perché questo incide un po' sulla spesa e a volte non si trovano nei circuiti dell'usato. Ma rispondiamo tra poco, perché prima dobbiamo andare a controllare il traffico. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Continuano a cambiare edizioni dopo pochi anni, non si possono utilizzare. Questo è uno dei messaggi che ci arriva dagli ascoltatori 349-238-6666. E ancora con il Veneto ha tagliato il finanziamento per i libri alle famiglie. La dote scuola è stata ridotta anche in Lombardia. E c'è chi ci segnala più o meno la stessa cosa del messaggio precedente: in Italia i libri cambiano ogni anno, com'è possibile pensare di darli incomodato per 4-5 anni? Pietro Yates Moretti, voi avete fatto questa proposta, ma alla proposta di incomodato c'è chi obietta: attenzione, se cambia il titolo come si può rendere pratica, operativa questa che sarebbe un'innovazione che allevierebbe di molto la spesa delle famiglie. Se cambia il titolo non incide in alcun modo sul problema per gli studenti della scuola, perché hanno già acquistato i libri che terranno per 4-5 anni. Ora, a meno che non ci sia una rivoluzione nelle scoperte scientifiche rivoluzionarie che debbano costringere ad aggiornare un testo da un anno all'altro, una scuola può benissimo adottare un libro per 4-5 anni, dopo 4-5 anni ne acquista uno nuovo e lo tiene per altri 4-5 anni. Se nel frattempo l'editore fa nuove edizioni, non lo venderà a quella scuola, molto semplice. Altra cosa, se mi permette, non capisco come questa proposta possa incidere sulla qualità del materiale scolastico, cioè si dice bisogna pensare alla qualità del materiale scolastico, dei libri scolastici. non cambia nulla da questo punto di vista, e la qualità può sempre essere perseguita anche nell'acquisto da parte delle scuole. Non mi pare che negli Stati Uniti o in Canada o in Inghilterra ci siano problemi di qualità dei libri scolastici, almeno dei risultati dei test internazionali sulla qualità dell'insegnamento. E la qualità, infatti, è quello su cui puntano gli editori, perché i libri scolastici, ci dicono gli ascoltatori, aumentano di prezzo, sono parecchio costosi ogni anno. Ma cos'è che determina il prezzo? Abbiamo la possibilità di capire cosa c'è dietro un libro scolastico, proprio la sua progettazione, la sua ideazione, la sua validazione. Alfieri Lorenzon. Innanzitutto è un po' come la temperatura d'estate, c'è differenza tra il reale e il percepito. Visto che io riesco per mestiere ad avere accesso a tutti i dati, le posso assicurare che il prezzo medio dei libri di testo e il prezzo, e quindi il rispetto dei famosi tetti di spesa di cui abbiamo parlato prima, è diminuito nel corso del tempo. Il prezzo medio dei libri italiani è diminuito. Poi, per quanto riguarda il discorso della qualità, è chiaro che non c'è un rapporto tra prezzo e qualità. Il mio non voleva essere un tentativo di sminuire la bontà dell'operazione indicata prima dal vicepresidente dell'ADUC, volevo semplicemente dire che c'è un rapporto tra quello che viene investito da parte degli, o almeno quello che gli editori tentano di fare andando a produrre un libro, e quello che effettivamente poi è il prodotto finale, che viene presentato dagli editori agli insegnanti e che viene scelto, perché poi ci sono 10 libri di inglese, ne viene scelto uno solo, che poi viene mantenuto per anni nella scuola. Non è vero che i libri cambiano ogni anno, la percentuale di cambio medio dei libri di testo nella scuola italiana è attorno al 20%, quindi un libro si cambia in media una volta ogni 5 anni. Poi è chiaro che di scuola in scuola di sì, probabilmente lei ha i dati, chiaramente lei affronta la questione sui dati nazionali e fa una media. Le assicuro che persone che hanno anche fratelli che a distanza di 2-3 anni sono iscritti nella stessa sezione, nella stessa scuola, si ritrovano con libri diversi. Agli ascoltatori, ed è una realtà molto diffusa. Però voleva anche capire da cosa determina il prezzo. Cioè, un libro di testo viene scritto da immagino insegnanti, professori, un autore, un gruppo d'autori, sì, che fa una proposta editoriale alla casa editrice e che valida questa proposta. Tenga presente che circa solamente un decimo delle proposte vengono poi concretizzate. A quel punto lì la casa editrice attua il sistema standard che tutti gli editori attuano, cioè con un sistema redazionale di controllo, di verifica, di tentativo di limitare, non di eliminare gli errori, ma il tentativo di limitare il numero più piccolo possibile gli errori, dà un prodotto che sia qualitativamente adeguato a quelle che sono le richieste di chi poi fa la scelta effettiva di adottare un libro o un altro, cioè della classe insegnante che fa le scelte determinate dalla conoscenza del luogo dov'è. Quindi ci sono libri che possono essere indifferentemente adottati dalle Alpi alle Piramidi, altri che possono avere una loro particolare connotazione territoriale, lei dice, ho capito. E quindi questo è il processo di validazione. Lungo e faticoso, varrebbe la pena durasse magari qualche anno in più dei 4-5 che lei ha indicato. Ma ci sono libri che durano molto di più, altri libri che, per i motivi che aveva indicato prima il vicepresidente, per cambiamenti vari, oppure perché ci sono dei professori che cambiano in questo e hanno altre esigenze, perché questo il libro tra l'altro autonomo. È legato alla libertà di insegnamento, un principio tutelato in Italia, però dovrebbe essere tutelato anche l'attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, che prevede che almeno l'istruzione inferiore sia gratuita oltre che obbligatoria, e da qui la proposta dell'ADUC che di fatto solleverebbe le famiglie dai costi. Intanto Grazie naturalmente ad Alfieri Lorenzon, grazie a tutti i nostri ospiti. Vogliamo sentire anche altre soluzioni. Sono state affrontate in modi diversi questi problemi. In Italia ci state riempendo di SMS che segnalano l'esigenza di abbandonare la carta, perché in realtà siamo nel 2015 e mio figlio ha fatto un anno di liceo in Australia, ci scrive Fabio da Livorno. Tutti i programmi erano online, non c'erano i libri. Perché noi in Italia continuiamo ad avere libri? Quindi siamo forse pronti per passare all'online totale? Lo chiediamo al dirigente scolastico ITIS di Maiorana di Brindisi, che oggi è con noi. Salvatore Giuliano, buongiorno. Benvenuto. Salve, buongiorno a tutti voi, grazie per aver chiamato. E dice questo ascoltatore, insomma, ma com'è che all'estero siamo all'online totale e invece nelle scuole italiane dobbiamo ancora utilizzare la carta? Lei sembra che, visto che la sua è considerata la scuola 2.0, chiamiamola così, per eccellenza, l'Istituto Maiorana di Brindisi, voi siete un istituto all'avanguardia, finite sui giornali un giorno sì e l'altro pure, siete il fiore all'occhiello delle scuole digitali. Si può abbandonare la carta, preside? Sì, io la chiamo ancora preside, il dirigente dovrei chiamarla, non so. Anche Salvatore, va bene. Salvatore, si può abbandonare la carta? Sì, assolutamente sì, è un esperimento, è un'esperienza ormai consolidata in diverse scuole d'Italia. Alla Maiorana di Brindisi lo abbiamo già fatto, grazie al progetto Book in Progress, che prevede la consegna sì di materiali cartacei, con un fortissimo risparmio per le famiglie. Parliamo di una dotazione libraria che complessivamente non supera i 50 euro e parliamo di 3,90 euro a volume. Cioè, aspetti un attimo, sì. 50 euro a studente, questa è la spesa, sì, più o meno. Esattamente. 3,90 euro a volume, ma come si presenta questo volume? Cioè lo si scarica e basta? No, 3,90 euro compresa la versione anche cartacea. Noi siamo una scuola secondaria di secondo grado, quindi molti ragazzi quando arrivano qui sono abituati a studiare sul cartaceo, quindi forniamo anche il cartaceo. Quindi con quell'importo di 50 euro loro hanno le versioni sia cartacee di tutte le discipline che le versioni digitali multimediali interattive. Ma i vostri testi sono particolari? Sono scritti dai docenti. È un'esperienza dai vostri docenti? Dai docenti del network, sono circa 1200 docenti delle circa 200 scuole aderenti al progetto Book in Progress in ogni regione d'Italia, che si incontrano in dipartimenti redazionali nazionali in presenza almeno due volte l'anno e poi collaborano attraverso la rete alla creazione, revisione, condivisione di contenuti. Ed è per questo che siete balzati sui titoli di tantissimi giornali, per questo Book in Progress e non solo, perché poi ne parliamo tra poco, vogliamo concludere questo nostro percorso sulla scuola, prima però linea al GR per l'aggiornamento delle notizie. Voi continuate a scriverci al 349-238-6666. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Libri, libri, libri, 905. Buongiorno da Irene Zerbini. L'articolo 4 della Costituzione dice che l'istruzione inferiore deve essere gratuita oltre che obbligatoria, e questo viene citato nel comunicato stampa dell'ADUC che ha affrontato di petto la questione del costo dei libri e ha detto che siano gli istituti scolastici a comprarli, così che possano strappare un prezzo d'acquisto chiaramente migliore, avendo un potere di contrattazione superiore alla singola famiglia, e poi li diano incomodato agli studenti. E si scopre che questa proposta, che tra l'altro è adottata largamente da molte nazioni diverse dall'Italia, ci segnalano anche il Belgio, questo non l'avevamo ancora nominato, anche in Belgio è così. E in quel caso i ragazzi ricevono all'inizio dell'anno il libro a scuola e lo restituiscono alla fine dell'anno perché vada ad altri studenti. Ci sono tantissimi sostenitori di questa possibilità e poi c'è chi ci dice che soprattutto già si fa a Trento e non solo, si fa anche in altri posti e in altri distretti scolastici in cui già sommessamente, come ci dice qualcuno, hanno adottato questo tipo di pratica per far sì che soprattutto le famiglie con un reddito più basso non debbano trovarsi piegate dal costo dell'acquisto del corredo scolastico, che in genere è costituito sì dai libri da una parte, ma anche da quaderni, zaini e tutte quelle cose che poi, se si hanno soprattutto più di uno studente, più di un ragazzo all'interno del nucleo familiare, rendono veramente difficile il mese di settembre, è stato detto, ma si comincia già ad agosto ad acquistare. Dall'altra parte abbiamo sentito anche la voce degli editori di libri scolastici che dicono: attenzione, gli insegnanti hanno la possibilità di scelta, scelgono quei libri che aiutano meglio a fare il loro lavoro, e noi offriamo prodotti di grandissima qualità. La validazione è un processo molto importante nell'editoria scolastica italiana, che comunque è una delle editorie scolastiche considerate tra le migliori in giro per il mondo. In mezzo a tutto ciò abbiamo anche percorsi diversi, per esempio quello dell'Istituto Majorana di Brindisi, dove il dirigente scolastico, preside Salvatore, vuole essere chiamato così, ha inventato questo book in progress, cioè i libri vengono scritti dagli insegnanti e poi cosa succede esattamente? Vengono messi online e ogni ragazzo li scarica? Ci spieghi allora, quest'ultimo passaggio. Sì, i libri vengono, i materiali prodotti dalla rete nazionale, quindi non è solo il Majorana, ci sono 200 scuole, vengono messi a disposizione degli alunni e delle scuole aderenti al progetto. Online, disponibili per chiunque vi abbia interesse, su canali pubblici tipo iTunes U, gratuitamente è possibile consultare molte delle video lezioni prodotte da diversi docenti, e ci seguono da ogni parte del mondo. Siamo molto seguiti, peraltro i nostri corsi totalmente gratuiti, ripeto, vengono fruiti da tantissimi alunni, non solo del circuito Book in Progress, ma anche di altre scuole, di altre nazioni. Quindi oltre a libri avete messo nel circuito anche video lezioni? Sì, assolutamente. Sono proprio strumenti didattici allora, non solo testi? Sì. Io sono fermamente convinto che la vera sfida della scuola italiana sia quella di intervenire sul modo di fare scuola, non tanto sul buon libro di testo, che è uno degli strumenti. Fino a 10 anni fa lo strumento libro di testo era l'unico, oggi non è più così. E allora credo che la vera sfida sia quella di affrontare un discorso che porti all'inversione del paradigma. Oggi molte realtà scolastiche vengono concepite come luogo dell'insegnamento. L'insegnamento è un percorso sicuramente importante, però credo che la vera sfida sia trasformare la scuola dal luogo dell'insegnamento al luogo dell'apprendimento. Le scuole esistono per far apprendere, non solo per insegnare. Insegnare, ripeto, è un aspetto importante. Rullo di tamburi, ha pronunciato una frase epocale, preside, certo, dirigente Salvatore, e perché non credo che tutti... Un problema di libri. Allora, ognuno di noi... non avrebbe nulla in contrario, come preside, come docente, come genitore, come studente, a fornire il miglior libro di testo in assoluto, ma avremmo risolto il problema? Secondo me no. Il problema è quello di invece di coinvolgere i ragazzi in un percorso di insegnamento-apprendimento, dando sfogo in maniera costruttiva alla loro enorme creatività. Questo che abbiamo fatto. Quindi il Book in Progress da prodotto si sta trasformando e si è trasformato in moltissime realtà scolastiche italiane in un nuovo metodo. Quindi, come poi voi avete cambiato anche le aule proprio perché della didattica, cioè ci quindi, racconti, provi a renderci queste immagini via radio delle vostre aule. Allora, la classe non è più concepita come quella dell'Ottocento, quindi non esiste più la cattedra, ma esistono banchi con le sedie, sedie con banchetto, quindi con le ruote sotto, che consentono di cambiare l'asset d'aula in maniera veloce e favorire un apprendimento collaborativo o un apprendimento cooperativo. Il docente diventa il facilitatore degli apprendimenti, i contenuti sono veicolati agli alunni prima dell'intervento in classe, quindi in classe ci si esercita. Quindi i ragazzi producono video, producono contenuti che mettono a disposizione, le cosiddette interrogazioni vengono effettuate con la presentazione di un lavoro, quasi sempre multimediale. Questo stimola molto i ragazzi. E i risultati in termini di apprendimento, perché poi il preside a quello deve prestare attenzione, sì, ma alla fine tutta questa fiera che cosa ci ha portato? Beh, ci ha portato a risultati entusiasmanti. I nostri ragazzi eccellono in tutte le competizioni nazionali e internazionali delle diverse tipologie di olimpiadi, dalla matematica, all'informatica, alla chimica, eccetera. Siete sempre ai primi posti, infatti vi vediamo lì ogni tanto ritirar premi con questi ragazzi di 15, 16, 17, 18 anni completamente presi dall'attività dell'andare a scuola, come si divertissero un mondo, tra l'altro, oltre a essere diventati molto più competenti dei propri coetanei. E anche questo deve essere un buon risultato. Rimanga con noi, vogliamo dare la parola agli ultimi ascoltatori e poi a una ragazza di 19 anni di Torino, che potrebbe essere il prodotto della filosofia che lei insegna di partecipazione, perché lei da studente è diventata start-upper proprio con i libri usati. Ma prima andiamo a Bari. Luigi, pronto, buongiorno, dica. Buongiorno. Sì. Luigi, mi spiace, proviamo a richiamarla, abbia pazienza perché dobbiamo riformulare il suo numero, perché non si capisce, la linea è proprio veramente molto disturbata. Intanto andiamo a Palermo, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Oggi tanti ascoltatori da Palermo. Sì, Peppe, sì. Ci dica. Dunque, io ho un modo particolare per riciclare i libri delle mie figlie, che i testi di carattere culturale storico li uso io personalmente per rispolverare un po' il mio bagaglio culturale. Bello, molto interessante. Per quanto riguarda le materie scientifiche, con le quali non ho avuto un ottimo rapporto, li consegno a scuola alle classi successive quanto più proprio possibile. Se ne libera, li toglie nel caso molto bello che lei utilizzi l'opportunità di avere dei ragazzi, dei giovani in casa per ripassare e migliorare. Non si segga a cena a interrogare le figlie, perché sennò diventa davvero pesante questa sua abitudine, no? Per quello no, sono molto soddisfatto della resa didattica delle mie figlie, però diciamo questo è il mio modo di usare i libri, che penso sia insomma un modo come un altro per leggere e mantenersi sempre. E ci manteniamo giovani con i libri dei nostri figli. grazie del suggerimento, Peppe da Palermo. E ci scrivono: no, la carta non si tocca, perché attenzione, la carta è cultura ed è meglio conservarli di carta i libri. Questo uno dei suggerimenti al 3492386666. Anche Michele dice: io continuo, nonostante abbia un dottorato in fisica, a sottolineare i testi che studio, e questo me lo permette solo la carta. E c'è poi invece chi mette il dito, punta il dito contro il peso da sopportare soprattutto negli zaini, e per questo eliminerebbe la carta, non perché la trovi meno efficace dal punto di vista della didattica. Vediamo se abbiamo ripreso il nostro ascoltatore barese. Pronto? Luigi? Pronto, ecco, ora sì, dica. Perfetto. Dica. È giusto un'osservazione. Io prima, quando ero studente, un po' di anni fa, diciamo, e adesso da genitore, ci sono delle cose che non capisco perché non vengono effettuate dall'editore. Cioè, nel senso, io vedo mia figlia che va con la cartella carica di libri. Il peso, proprio, quindi, anche lei. Tantissima. Che classe frequenta sua figlia, più o meno, che anni ha? Seconda media. Quindi 11 anni, 12 anni. 12 anni. Niente, l'unica cosa che non capisco, perché quando ero ragazzo, ripeto, avevo sempre pensato, visto che le varie materie, quando si studiano per capitoli, perché non fare dei fascicoli e mettere in raccoglitore ad anelli, in modo tale che quando si fa quel capitolo, oggi portate il capitolo numero 5, 6, 7, 8, in modo tale da portare soltanto il fascicolo di quella materia. È lo stesso, quando poi c'è il libro, che bisogna a me comprarlo, ricomprarlo, perché ci sono degli aggiornamenti, completarlo semplicemente con il fascicoletto da inserire nel libro che già uno ha. Grazie. Non da poterlo trasmettere eventualmente agli anni successivi. Grazie, grazie per questo suggerimento che si somma a quello che avete sentito del comodato d'uso. Tra l'altro ci scrivono ci scrive il preside di Pesola in provincia di Bari e loro utilizzano nella sua scuola, non specifica se media o superiore, proprio il comodato d'uso con gara d'appalto per ridurre i costi e la restituzione a fine anno dei libri in comodato. Quindi vedete che tante volte ci sono già delle realtà che da sole hanno avviato una strada che possa venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie. E ci ha pensato anche questa ragazza, si chiama Arianna. Arianna Cortese, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è diventata, tu sei diventata un'imprenditrice, Arianna. Sì, sono diventata una startup l'anno scorso. Ho finito la maturità e ho deciso, appunto, che mi è venuta questa idea di creare un'app per facilitare, diciamo, di mettere in contatto domande e offerte dei libri usati per noi studenti senza ricorrere all'intermediazione delle librerie, che è spesso è molto inefficiente oltre che molto onerosa. Quindi ho deciso, appunto, di facilitare, di velocizzare un pochino questa, diciamo, questo nostro modo di comprare libri, soprattutto un'esigenza nostra di venire incontro. E hai creato questa app Pick My Book, quindi come funziona? È gratuita, si può scaricare e di fatto si mette in contatto chi ha il libro da vendere con chi lo cerca. Esatto, perché tramite, appunto, la fotocamera dello smartphone il venditore, diciamo il ragazzo che vuole vendere il proprio libro, può fotografare il libro, quindi automaticamente il sistema lo riconoscerà e inserendo le caratteristiche del libro, quindi se è usato, molto usato, quasi nuovo, così inserendo anche il prezzo a cui vuole venderlo, oltre che alla sua posizione, essendo il servizio geolocalizzato. E tu sei un'informatica? No, io infatti ho trovato degli altri ragazzi che mi hanno aiutato, appunto, a sviluppare questa applicazione, perché a me è venuta l'idea, ecco. Poi fortunatamente ho conosciuto altri due ragazzi che sapevano invece come trasportare il linguaggio tecnico questa idea, oltre che siamo riusciti a trovare degli investitori che ci hanno aiutato a... Grazie ad Arianna, e ci sono naturalmente tanti circuiti dove acquistare anche libri usati, come è stato detto, ma volevamo sentire ancora una volta quanto i ragazzi possono essere creativi. Lei non è un'informatica, Arianna Cortese, ha frequentato il liceo scientifico e adesso è iscritta a giurisprudenza, però affrontando questa fase della vita le è venuto in mente, perché no, risolviamola, che è quello che un po' la scuola dovrebbe trasmettere, Salvatore Giuliano. Sì, assolutamente. Dice Ken Robinson, non lo dico io, ma lo cito, che la scuola molto spesso uccide la creatività, e questo è vero. E molto spesso i ragazzi, man mano che salgono come anni nel percorso di studio, vengono, fra virgolette, terrorizzati dalla paura dell'errore. E come dice Ken Robinson, che prendo a piene mani, non bisogna certamente dire che sbagliare è uguale a essere creativo, quindi che l'errore è creatività, no. Però se non hai il coraggio, l'incoraggiamento a sperimentare, a cambiare, a proporre, non sarai mai un creativo. E questo è quello che noi stiamo facendo qui, e i risultati, ripeto, si vedono. Due cose vorrei sottolineare. Velocissimi, siamo in conclusione, preside. Allora, il peso degli zainetti. Ragazzi. Benissimo. I nostri ragazzi vengono a scuola con un tablet che non supera il peso di 500 grammi. I libri cartacei restano a casa. E un'ultima cosa, secondo me non ha molto senso parlare di contrapposizione tra il cartaceo e il digitale. Se noi prendiamo e consideriamo il digitale come la trasposizione di un cartaceo messo su un tablet, allora questa non è un'operazione molto intelligente. L'ebook digitale, soprattutto di editoria scolastica, deve contenere, a mio modesto avviso, tutte quelle cose che naturalmente fisicamente su carta non vanno, quindi video, animazioni, interazioni, testi interattivi, la possibilità di condividere. Chiaro, non una mera trascrizione. Grazie a Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell'ITIS di Maiorana di Brindisi, la scuola 2.0 considerata l'eccellenza italiana e non solo. In conclusione ha sentito Pietro Yates Moretti, vicepresidente dell'ADUC, la sua proposta non solo piace, ma è già stata adottata in molti istituti in Italia. Benissimo, e veramente complimenti al dirigente Salvatore, perché non si tratta solo una questione di costi, ma una questione di mentalità, cioè si cambia e la scuola diventa per gli studenti più che per i diritti degli insegnanti, e vi posso assicurare, avendo avuto anche esperienza all'estero da studente e da professore, che questo nuovo approccio che si sta aprendo è una rivoluzione fondamentale per questo paese. Grazie, grazie a Pietro Jez Moretti, e fondamentale, centrale, centralissimo come sempre è il tema della scuola. Ma poi, dopo la scuola, se c'è un tema che tocca tutte le famiglie senza risparmiarne nessuna, è quello del lavoro, quello di chi il lavoro ce l'ha, quello di chi il lavoro non ce l'ha e quello di chi invece del lavoro, ritenendo di avere un lavoro, ha in realtà una schiavitù. Ora noi affronteremo la tematica che ci porta in Puglia, ma potrebbe portarci in tante altre regioni italiane, del caporalato, prendendo l'avvio purtroppo da un lutto che una famiglia sta affrontando, ed è stato proprio il marito di una bracciante a decidere di rompere questo muro di gomma, il muro dell'omertà a cui sono inchiodate migliaia di famiglie in Italia. Ha raccontato, dopo la morte della propria moglie, sulla quale ancora si deve far luce, visto che non si comprendono diversi passaggi che hanno portato alla scoperta del decesso, ha raccontato che comunque sua moglie andava via di casa alle 2 di notte, prendeva l'autobus alle 3, ai campi ad Andria da San Giorgio Ionico arrivava dopo 2 ore e mezza, intorno alle 5 e mezza, a casa ritornava dopo le 3 del pomeriggio, in alcuni casi anche alle 6 del pomeriggio. Tutto questo per quanto? 27 euro al giorno. Allora gli è stato detto che era troppo poco per un sacrificio così, e lui ha dovuto ammettere che per quella famiglia quei soldi erano molto importanti, erano soldi sicuri, assolutamente indispensabili, altrimenti non avrebbe accettato che Paola si sottoponesse, come tutti nella famiglia con 3 figli, a quel tipo di lavoro. Ma non c'era alternativa sul territorio, non c'era altra possibilità, e ora ha raccontato Paolo, ha raccontato il marito, scusate, Stefano Arcuri, vogliamo la verità, vogliamo sapere come è morta mia moglie, voglio capire perché la cosa più bella della mia vita non c'è più. Giuseppe De Leonardis, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. È soprattutto la FLAI CGIL, uno dei pochi sindacati, una delle poche realtà che svolge indagini su questa realtà così difficile da scoperchiare. Ormai sembra che siano le donne italiane le preferite dai caporali, anche se in Puglia, solo per dare 2 numeri prima di avviare la conversazione, sono circa 40.000 le donne italiane e 18.000 le donne straniere che lavorano stagionalmente nei campi, nei distretti agricoli, in cui le condizioni di lavoro molto spesso, non sempre, certo va segnalato, ma molto spesso sono disumane. Ebbene, perché le donne? Perché le donne, soprattutto italiane, si ribellano meno, accettano di più, sembra abbiano dichiarato alcuni degli imprenditori. Voi state aiutando questa famiglia a ottenere giustizia, Peppino De Leonardis, e innanzitutto ci racconti i braccianti, le braccianti, che rapporto hanno con i caporali? E quale parte del loro compenso devono dare a questi caporali? Le braccianti con il caporale hanno un rapporto di subordinazione, perché sono gli unici in grado di dare una risposta fra domande e offerte del lavoro, perché non c'è un luogo pubblico, quindi sono l'intermediazione, il caporale, ma questo prevalentemente in alcune aree, perché non tutte le aree sono pervase da caporale. La storia, diciamo, è fortemente radicata nel Brindisino, nel Tarantino, nel Barese, che arrivano da queste aree. Poi c'è un caporalato etnico che caratterizza fortemente il Foggiano, una parte delle Cise, quindi con varie sfaccettature, e quindi in tutta questa funzione sia il caporalato italiano, i caporali italiani e i caporali etnici svolgono questo ruolo che spesso c'è un'assenza dello Stato, perché non c'è diciamo un incontro fra domande e offerte del lavoro. Ed è chiaro che quando c'è una subordinazione, io ti do il lavoro, io ti pongo le condizioni, ti organizzo tutto, ti do il pullman, sono io che individuo qual è l'azienda dove devi andare, è chiaro, in questo rapporto di subordinazione c'è un rapporto di costrizione anche rispetto alle condizioni contrattuali, quindi sotto salari, si firmano le buste che non sono contrattuali, spesso avvengono attraverso meccanismi che dal punto di vista legale hanno una parvenza di legalità, perché le buste paghe di solito sono corrette per avere la fiscalizzazione degli oneri sociali, ma spesso non riportano le giornate effettivamente lavorate. Diciamo spesso ci sono stati, vengono registrati part time senza che i lavoratori sottoscrivano contratti a part time pur lavorando oltre le ore contrattuali, cosa che a 40 gradi come di solito succede nell'estate pugliese. Esatto, e con condizioni di lavoro, questo ne parliamo dal punto di vista dei diritti legati. Poi dal punto di vista delle condizioni di lavoro è chiaro che la subordinazione è in tutto per tutto, perché al centro è il lavoro in sé, chi detta le condizioni. Il caso di Paolo è una testimonianza, c'è una che si sente male sul pullman, si sente male, ha un po' di sudorazione, cioè nessuno dice fermati, chiamiamo un medico, vediamo, no, aspetta lì, siediti che ti passa, perché questo è stato raccontato. Questo e così è stato... successo. Accertato finora. Lei ha partecipato, ha collaborato alle indagini, ha fornito elementi al commissariato? Ma noi più che fornire, noi non facciamo indagini come sindacato, no, però chiaro. È stato chiamato. Esatto, che dentro una battaglia sui diritti, nel momento in cui abbiamo saputo un caso e abbiamo avuto elementi di un caso, era nostro dovere rompere quel muro di omertà, cioè assumendoci la responsabilità, mettendoci la faccia, anche con responsabilità che possono andare oltre. Quindi noi l'abbiamo fatto perché c'è bisogno di rompere un muro di silenzio, ieri sono stato chiamato dal commissariato in cui mi hanno chiesto notizie e noi abbiamo dato anche alcuni elementi, alcune informative, ripeto. Però questo adesso è il tribunale, la giustizia che deve fare il suo corso. Chiaro. E poi come si può contrastare questo fenomeno in continua evoluzione, che lì si svolge sotto il sole, tutti lo sanno, va avanti da anni. Voglio ricordare che c'è anche un bracciante, si chiama Arcangelo, questo sappiamo, ha 42 anni ed è in coma a San Giorgio Ionico, è stato colpito proprio da un infarto nelle campagne del nord barese, stava lavorando a una vigna sotto un tendone. E è un'altra delle vicende rese note alla stampa proprio dalla Fly CGL di Puglia. Nell'ultimo mese, nelle campagne solo pugliesi, si sono registrate le morti sul lavoro di 3 braccianti. Sono in corso accertamenti anche su questo. Ma ci sono situazioni che sconfinano anche negli abusi sessuali, nelle violenze sulle donne straniere, segnalate in questo caso e in prevalenza in Sicilia e nel Ragusano. Ma sono tutti fenomeni in realtà difficili anche da quantificare, da descrivere, proprio perché chi vi è coinvolto ha in quella situazione, per quanto penosa, per quanto estenuante, l'unica fonte di reddito della famiglia, e non intende inimicarsi il padrone, il proprietario, proprio perché la minaccia maggiore che i caporali rivolgono a chi si lamenta, a chi fa storie, è: domani tu non sali sul pullman, domani io non ti faccio lavorare. Già quella giornata mancante comporta molti problemi. 800 24 00 24 è il numero di telefono, 349 238 6666. Sono già molti messaggi e le testimonianze che arrivano un po' da tutta Italia sul caporalato. Ci chiederemo anche cosa potrebbe funzionare veramente, cosa servirebbe dal punto di vista giuridico e normativo per mettere fine a questo fenomeno, e tra poco affronteremo questo tema con qualcuno che ha fatto proprio una proposta di legge in questo senso, per ottenere quegli strumenti per scardinare questo sistema che merita invece di essere annullato o quantomeno regolarizzato. Ne parliamo tra pochissimo, linea alla regia, e torniamo insieme tra un istante. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E vediamo che la vicenda del caporalato ha bisogno soprattutto di proposte e di soluzioni. Arrivano anche da voi, dagli ascoltatori, tra l'altro, che vivono molto lontano da queste zone in cui avviene questo tipo di sfruttamento. Abbiamo un ascoltatore da Milano con una proposta molto interessante. Sentiamolo, Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Grazie per avermi richiamato. Ma dunque, io penso che le persone fanno le cose se ci guadagnano qualcosa. Una persona, per quanto sotto il giogo del caporalato, comunque guadagna quel poco denaro che le serve. Allora, nel momento in cui gli si dice tu denunci, ma io ti garantisco che ti sposto, tanto per cominciare, perché se rimani lì poi ti farò la pelle, e ti do un permesso di soggiorno regolare di un anno nel quale puoi trovarti un lavoro vero, secondo me non vedo perché non dovrebbero farlo. E quindi dare, affiancare la persona che denuncia e non limitarsi all'invito. Oggi, anzi ieri, il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina ha detto, ha usato parole forti, ha detto è un fenomeno da combattere come la mafia, perché di fatto lo è. Chissà, denunci, dobbiamo inasprire le pene. Lei, Lorenzo, dice non basta la repressione, ci vuole anche un incentivo a uscire allo scoperto, e visto che tante volte si tratta di lavoratori stranieri sfruttati, per esempio lei parla di permesso di soggiorno o lavoro certo. Vediamo che altro si può fare. Lorenzo, grazie mille per questa sua non solo suggestione, ma insomma una proposta pratica che potrebbe essere presa in considerazione. Dario Stefano, senatore, buongiorno. Pronto? A tutti. Pronto, ecco, ora l'abbiamo acciuffata alla fine, abbiamo sentito solo una a tutti, quindi diamo per scontato il buongiorno. Lei ha proposto una legge, cosa chiede in questa proposta di legge? Ma io chiedo la istituzione di una commissione di indagini per provare ad entrare dentro ad un fenomeno che si sta sviluppando in maniera esponenziale, che non investe più solo il settore agricolo, ma investe soprattutto il settore agricolo, e che sta mutando quasi geneticamente nelle sue forme di penetrazione in un mercato del lavoro che vorrebbe essere sempre più flessibile. La commissione d'indagine avrebbe questo obiettivo, quello di conoscere meglio il fenomeno, di valutarne anche quantitativamente la portata in alcune aree geografiche soprattutto, e quindi di produrre tutti gli elementi necessari ad un'impalcatura normativa che ci dia elementi di prevenzione un po' più efficaci di quelli attuali, ma anche di repressione e controllo. Quindi repressione e controllo dopo, ma anche prevenzione. Ora, come si previene? Secondo lei, poi le dico cosa ci stanno scrivendo anche gli ascoltatori così attenti a questo fenomeno e molto sagaci nel suggerimento di soluzioni. Ha sentito anche l'ascoltatore da Milano che ci diceva: attenzione, offrite delle alternative e vedrete che la gente parlerà. Ma qui non si tratta di offrire delle alternative, la proposta è suggestiva, qui si tratta di avere un approccio organico alla questione. Io voglio ribadirlo anche per la pregressa mia esperienza di amministratore regionale in Puglia con delega all'agricoltura proprio, per quello conosce la stragrande così bene questo fenomeno, scusi l'interruzione. Le aziende agricole anche in Puglia sono aziende che operano con lavoro regolare e in trasparenza. Sì. Esiste però questo fenomeno che assume dimensioni sempre più ampie e che si alimenta purtroppo anche con risorse pubbliche, perché non è possibile che queste stesse aziende agricole, che a volte sotto l'alibi di una necessità di esternalizzare l'organizzazione del proprio lavoro, prendano ingenti quantità di risorse pubbliche, che siano statali, che siano comunitarie, senza dimostrare poi di aver adempiuto a quelle che sono le normative anche in fatto di lavoro. Cioè, voglio dire, è arrivato il tempo che ad un'azienda che produce 100 bottiglie di vino gli si chieda con quale manodopera e con quale tipo di contrattualizzazione, diciamo, le ha realizzate. Perché... ci aiuti a capire. Dunque, lei è stato assessore all'agricoltura e quindi conosce bene il territorio e le modalità stagionali, perché ci sono ovviamente dei picchi stagionali per questo tipo di settore, no? Che rendono più evidente il fenomeno e l'emersione anche di problematiche. In realtà poi durante tutto l'anno si verificano questioni come quella che abbiamo appreso in questi giorni. Un'azienda oggi può produrre per esempio 10 quintali di pomodoro, però lei dice: noi abbiamo bisogno di una commissione d'inchiesta che ci permetta di entrare sul fenomeno, non solo con l'ispezione, ma di chiedere all'azienda, prima di avere il contributo pubblico dell'Unione Europea, se voi avete prodotto 10 quintali di pomodoro, evidentemente avete avuto bisogno di una certa quantità di manodopera che si può quantificare anche in giornate lavorate. Ci dimostrate che queste giornate siano state regolarmente retribuite, contrattualizzate? È un po' questo, mi dica se ho colto il senso. Lei ha colto sicuramente il senso. La commissione d'inchiesta parlamentare non serve per chiedere all'azienda preventivamente, la commissione d'inchiesta parlamentare serve per acquisire ogni elemento senza nessun limite, senza nessun filtro, di conoscenza del fenomeno per poter poi legiferare meglio. In Puglia ci abbiamo provato, in una materia come è quella del lavoro, che è una materia concorrente, in Puglia abbiamo provato introducendo in una legge che è stata premiata anche dall'Unione Europea, una legge che combatte il lavoro nero, per il mondo agricolo abbiamo inserito i cosiddetti indici di congruità, in sostanza cosa diciamo alle aziende per poter avere accesso ad una serie di opportunità anche di natura finanziaria, tu ci devi dimostrare di aver avuto un numero congruo di lavoro regolare che è stato necessario a realizzare quelle produzioni. E questo è un principio che già potrebbe mettere in difficoltà seriamente questo tipo di meccanismi, visto che oggi, essendo le buste paga a volte inferiori ai 1000 euro e quindi non c'è un obbligo, come dire, di tracciabilità, in teoria io posso aver usato un numero X o 10 volte tanto, 10 volte inferiore di lavoratori, nessuno mi chiede di provare quanto ho fatto lavorare quel lavoratore, quanti ne ho usati, a che condizione, quanto l'ho pagato. No, ma dico di più: in un mercato del lavoro che tutti vorrebbero sempre più flessibile, sì, si nascondono spesso degli alibi attraverso i quali, diciamo, io ho la scarsa possibilità di entrare dentro alla manifestazione del fenomeno. Cosa voglio dire? Una piccola azienda che sotto l'alibi della sua incapacità organizzativa delega ad un terzo l'organizzazione della raccolta dei pomodori nel proprio fondo e da quel terzo si fa fare una fattura per prestazioni di servizi, e quell'azienda, diciamo, un po' per fatto culturale, un po' per alibi, appunto, pensa di essere esonerata da essere responsabilizzata rispetto alla qualità del lavoro che ha generato quelle produzioni. Perché accade così? Accade che qualcuno dice: in un momento in cui ho una stagionalità della raccolta e ho necessità di ricorrere ad un numero significativo di manodopera, non avendo io al mio interno aziendale, diciamo, la capacità organizzativa, delego ad una terza persona la raccolta dei pomodori in quegli ettari di mio territorio. Cioè, più che la raccolta dei pomodori, la raccolta dei braccianti che andranno a raccogliere i pomodori. Cioè, questo è il meccanismo di delega. Delego la raccolta, e in questa delega di raccolta delego lui ad acquisire la manodopera, certo, ad organizzarla ed a pagarla come crede lui. E io sono a posto dal punto di vista della legge. Bene, non è possibile che ci sia, diciamo, una sorta di non responsabilità oggettiva di quell'azienda, che va chiamata a rispondere in solido dei comportamenti che vengono diciamo realizzati sul suo terreno produttivo. Perfetto, allora... senatore, abbiamo capito il principio di quanto da lei richiesto. Rimanga con noi perché vogliamo vedere come si potrebbe attuare nella pratica e se questo principio porterebbe finalmente a una soluzione del problema. Avvocato Pasquale Chiecco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E lei fa parte del collegio di avvocati che difenderà, sta rappresentando il marito della signora Paola Clemente, tra l'altro è docente di diritto del lavoro all'Università di Bari. Se torniamo alla vicenda della signora Clemente, quel giorno la signora è uscita di casa con le sue gambe e stava bene o aveva già avvertito dei malesseri? Diciamo come già... ricordare a lei, riportando un po' i dati salienti del caso, le informazioni che noi abbiamo sono informazioni acquisite in maniera indiretta attraverso appunto ciò che il marito è riuscito a sapere sentendo alcune colleghe di lavoro della moglie. Sembra che in realtà si sia già sentita male durante il tragitto, tanto che è stata appunto aiutata, sudava, aveva una sudorazione, un malessere abbastanza evidente, tanto da essere aiutata sollecitamente dalle altre colleghe, però questo non ha impedito il fatto, sembrerebbe appunto, che l'automezzo su cui tutte quante viaggiavano poi proseguisse il suo viaggio non verso il primo pronto soccorso utile ma direttamente in campagna, dove lei poi è scesa, è rimasta lì sotto il tendone in attesa che si riprendesse, cosa che poi, come sappiamo, non è avvenuta perché poi è deceduta. Ecco, questo luogo dove la signora Paola ogni giorno prendeva l'autobus che poi l'avrebbe portata dopo 3 ore di viaggio nelle campagne dove lavorava, è un posto naturalmente all'aperto, pubblico, noto a tutti in zona, immagino. Sì, certo, diciamolo. Quindi li conoscono tutti, anche i caporali e coloro che radunano questo tipo di braccianti. Certo. E avete avuto problemi a ottenere testimonianze dalle colleghe della signora? Adesso fin qui non parliamo di testimonianze, parliamo di informazioni fornite appunto in modo informale al marito della signora. Adesso su questa vicenda, come lei sa, come ricordava, c'è stato un esposto alla Procura della Repubblica che accerterà e acquisirà le informazioni, trasformerà queste informazioni, diciamo, acquisite in modo informale in testimonianze, questo che ci aspettiamo dall'indagine, a cominciare anzitutto da un dato che andava accertato e sarà accertato, che sono che è quello relativo alle cause del decesso della signora Clemente, perché lì è il primo punto di partenza di questa vicenda. Noi non sappiamo come mai una persona di 49 anni, che noi sappiamo sana, essere sana, è andata via di casa e non c'è più tornata, diciamo, disposta un'autopsia. È già stata disposta l'autopsia che si svolgerà domani, quindi già cominceremo ad avere delle informazioni, delle più precise di dettaglio su quello che è successo e sulle possibili cause o con cause che hanno determinato questo decesso. Tra l'altro il marito lamentava in un'intervista di non aver nemmeno saputo ancora se e la moglie fosse stata veramente soccorsa da un'ambulanza, come alcuni avevano dichiarato dopo, quando poi la paura li ha spinti a dichiarare di aver chiamato i soccorsi, se sia arrivata davvero in un reparto ospedaliero, perché quando lui è andato a controllare non la conosceva nessuno. Per cui state ancora ricostruendo a pezzi le ore precedenti questo decesso, ed è incredibile che un avvenimento accaduto poi sotto gli occhi di tutti, di colleghi e colleghe, ancora non si sappia come è andata. Hanno detto al marito che è intervenuto il 118, lui almeno qualche giorno fa ancora non era sicuro. L'azienda per cui lavorava questa signora sostiene che questa signora, che aveva solo 49 anni, avesse un contratto regolare. Voi avvocati avete appurato che fosse così? Senta, noi abbiamo acquisito, per il momento la prima documentazione che abbiamo acquisito riguarda un contratto che in realtà la signora non aveva con l'azienda direttamente, ma un po' ritornando a quello che diceva il senatore Stefano, aveva invece un contratto di fornitura di prestazioni di lavoro, che era un'agenzia di somministrazione che ha provveduto a contrattualizzare e quindi a fornire queste prestazioni di lavoro all'azienda che se ne è avvalsa. E si diceva nel contratto che prendeva, si diceva che guadagnava 27 euro al giorno nel contratto? Il contratto riporta una retribuzione che è allineata ai minimi contrattuali, quindi dal contratto sembrerebbe che ci sia una retribuzione che rispetti i minimi contrattuali, perlomeno come busta paga. Come busta paga, formalmente corretta. Avvocato, la blocco un attimo. Tratta di capire, siccome appunto le informazioni tra quello che effettivamente la signora portava a casa in termini di euro, e quindi parliamo appunto di questa somma di 27 euro, rispetto invece agli importi, seppure minimi, tengo conto che parliamo come retribuzione mensile di 1200 euro lordi. Comunque lei non ci arrivava assolutamente, 27 euro al giorno, per quanto minimi non venivano assolutamente percepite dalla signora. Torniamo tra pochissimo su questa vicenda che merita approfondimento e merita soprattutto che non si creino le condizioni perché non si ripeta. Prima però il traffico. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E purtroppo le segnalazioni sullo sfruttamento della manodopera non arrivano solo da alcune parti d'Italia, non c'è nessuna regione che sia risparmiata, ci viene ricordato anche il disastro a Ravenna nel 1987 che scatenò un incendio nella stiva di una nave gassiera. Quelle esalazioni, quella combustione causarono la morte per asfissia di 13 operai, erano lì per la manutenzione, e anche allora, era il 1987, si parlò di caporalato che si muoveva per il reclutamento di manodopera per la manutenzione navale. In questo caso c'è un settore completamente diverso, ma ancora una volta il problema di una realtà che si conosce ma che si fa fatica a sradicare. Buongiorno Federica, una nostra ascoltatrice che aspetta da molto, ci dica. Pronto? No, io volevo soltanto dire... Sì, mi sente? Da dove chiama lei? Sì, sì, sentiamo. Da Caserta. Bene, dica Federica. No, volevo soltanto dire che il problema si conosce ma non si vuole risolvere. Perché, diciamo, almeno noi in Campania, in qualunque angolo troviamo questi gruppi di persone che aspettano di essere reclutate per il lavoro. Quindi, voglio dire, basterebbe un appostamento seguire e si capirebbe dove vanno. Cioè, a me ogni volta in Italia mi sembra che le cose cadono dal cielo, non si riescono mai a risolvere, quando invece è facilissimo. Grazie, grazie a Federica, anche nel casertano naturalmente. Il fenomeno del caporalato è ben noto ed è questo che colpisce. Avvocato Vito Miccolis, buongiorno, benvenuto. Pronto? Pronto? Un altro avvocato del marito della signora Paola Clemente. È questo che colpisce. Dove la signora prendeva l'autobus, dove si reclutano altre donne e non solo, dove probabilmente è partito lo stesso autobus anche questa mattina, è cosa nota. Come mai non c'è modo di intervenire? Come mai non c'è mai modo di effettuare dei controlli efficaci sulle condizioni in cui lavora lavorano a 40 gradi sotto il sole questi braccianti e queste persone? Secondo me perché vengono considerati braccianti come lavoratori di serie B, si muore più nei campi della Puglia e non all'interno della grande Ilva, però quando succede qualcosa all'interno dell'Ilva prende le pagine nazionali, c'è lo sciopero, c'è una mobilitazione. lei ha ricordato. Beh, adesso non facciamo adesso una competizione sulla sensibilità, sono fenomeni che vanno perseguiti ugualmente. Quindi mi dica. Il problema è, come diceva il professor Chieco, dal punto di vista delle carte è tutto a posto, c'è un contratto di prestazione di lavoro a tempo determinato sottoscritto dalla lavoratrice, da Paola, dove si dice che doveva iniziare a lavorare alle 7 di mattina fino alle 13.30. Sì. Mi chiedo come mai veniva preso per andare a un lavoro alle 7, iniziare a lavorare alle 7. C'è qualcosa che non quadra. Quindi scusi, non abbiamo sentito proprio per problemi in linea la prima parte della frase. Come mai veniva, mi scusi, avvocato, come mai, ripeta? Come mai si partiva alle 3 di notte per andare a lavorare quando nel contratto era previsto l'inizio della lavorazione dalle 7 alle 13.30? E inoltre. Perché si parte all'alba con questi lavoratori? C'è qualcosa che certamente dal punto di vista delle carte va tutto bene, però io sono sicuro che la procura di Trani accerterà la verità di quello che è accaduto in questa vicenda. E ce lo auguriamo naturalmente tutti, ma vogliamo capire anche l'aspetto poi della segnalazione del malore. La signora potrebbe non essere stata portata in ospedale proprio per timore da parte di chi gestisce questo tipo di meccanismi di caporalato, proprio di venire in qualche modo scoperti, di sollevare un polverone. Questo lo accerterà certamente la procura. Le posso segnalare una cosa molto bella che mi ha detto ieri il marito di Paola. Assolutamente. Ha saputo che le colleghe, le lavoratrici che guadagnano 27 euro, cioè come la moglie, in tasco hanno 27 euro, hanno deciso di destinare un giorno del loro lavoro per la famiglia Arcuri, per il marito e i figli di Paola. È un bellissimo gesto. C'è sempre da prendere esempio da questo tipo di generosità. 27 euro al giorno, persone che si alzano alle 2 di notte e continueranno a farlo anche dopo questa morte. Perché questa mattina sì, moltissime lavoratrici stanno lavorando ora in campagna, sono partiti stamattina dalle loro residenze per quella paga. Nessuno prende più di 30 euro, le braccianti italiane qui in Puglia. Sulla carta prenderanno la tariffa sindacale, ma andate a chiedere un po' alle lavoratrici quanto prendono realmente in busta paga. Il responsabile regionale della FAE lo sa benissimo, le battaglie che hanno fatto per avere giustizia all'interno dei campi. E dopo le condizioni di lavoro che sono costrette a subire le braccianti agricole, quale operaio sarebbe disponibile a stare sotto un telone a 40 gradi di temperatura, dove sotto il telone dove si raccoglie l'uva aumenta fino a 50-60 gradi? Senatore Stefano, ha sentito e vorrei concludere tutta questa discussione con le parole dell'avvocato e del marito della signora di cui stiamo raccontando la vita, esponendo dettagli anche privati. C'è stato molto pudore anche nell'intervista, per quello abbiamo scelto di non disturbarlo noi oggi in onda, perché ha dovuto giustificarsi sul perché la famiglia aveva bisogno proprio di quei 27 euro. Ma ha detto: per la nostra famiglia quello era denaro indispensabile. Questa mattina, mentre noi parliamo, ancora le braccianti stanno lavorando nella stessa azienda, nelle stesse condizioni, per la stessa paga. Cosa si può fare in sintesi? E grazie alla commissione d'inchiesta e grazie a quegli indici di congruità che lei ha indicato. Ma guardi, io credo che intanto si deve essere molto più incisivi sul fronte della repressione, perché se è vero, come è vero, che da quella stessa piazza ogni mattina parte un pullman per portare le colleghe di Paola sugli stessi luoghi di lavoro e alle stesse condizioni, io credo che ci voglia un'attività di monitoraggio e di identificazione dei soggetti coinvolti, che non è più rinviabile. Ho fatto una telefonata ieri al prefetto di Bari affinché facesse anche lui portavoce nei suoi colleghi delle altre province in Puglia di una sensibilizzazione alle forze dell'ordine, perché quantomeno si vada a verificare il traffico di questi esseri umani da un luogo all'altro, in quali condizioni avviene e chi lo organizza. Poi io credo che vada prodotto uno sforzo normativo molto più robusto da un punto di vista nazionale, che ci consenta di impedire che sotto l'alibi di contratti atipici, diciamo, si continui, si consumino queste, queste vergogne mafiose. È insopportabile. Io credo che la qualità delle produzioni italiane e pugliesi nel mondo sia una qualità ormai riconosciuta, per la quale abbiamo tanto lavorato, ma se quella qualità manca dell'elemento più qualificante, che è quello, è chiaro, del rispetto del lavoratore, del rispetto del lavoratore, della dignità umana, quella qualità perde di significato. Grazie. Anche da un punto, grazie, di vista commerciale. E quindi commissione d'inchiesta, questa è la sua richiesta, perché si possa entrare nelle aziende, interrogare, verificare a fondo. Ringrazio in redazione Laura Faggin, Silvi Boccaletti, Luca Cremonese, Massimiliano Lollis, tutta la redazione di Spunti di Vista. Continuate a scriverci a spuntidivista@radio24.it. Peter Bescapè in regia, grazie. Noi ci ritroviamo domani da Irene Zerbini. Buona giornata.